guardato lo specchio, ho preso la scossa. Ho appoggiato l'orecchio alla porta per sentire chi c'era lì fuori, che faceva tutti quei rumori. Ho aspettato la pioggia, poi chiuso l'ombrello. E ne so che mi dice il cervello, però ho visto chi c'era lì fuori, che faceva tutti quei rumori. Ero io, che ero fuori di me, ero fuori di senno. Devo prendermi se no, resto fuori di me. Ero fuori di me, sono fuori di senno. Devo portarmi dentro, o resto fuori di me. Credo sempre solamente a chi non se lo merita. Lo so che devi credere a me stessa. Sono la stessa che tira graffi con i gatti e principessa, che spacca il mondo sopra i tacchi e non basta mai lo spazio, l'aria, il tempo. Per tutto, tutto quello che io sento, per questo sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo prendermi senno, resto fuori di me. Sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo portarmi dentro, o resto fuori di me. Sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo prendermi senno, resto fuori di me. Sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo portarmi dentro, ora sto fuori di me, resto fuori di me. Dalla mia finestra aperta entrano le mosche, esce la tempesta. Sono Atlantide sommersa, forse non esisto più. Sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo prendermi se no, resto fuori di me. Sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo portarmi dentro, o resto fuori di me. Sono fuori di me, sono fuori di senno. Devo prendermi senno.